per la propria strada senza osservare quelle regole che sono il fondamento di una comunità. Il finanziamento dei partiti, le cronache di questi giorni lo testimoniano, è un nodo irrisolto. Che cosa non è stato fatto di quello che voi avete portato alla luce come cuore del problema? Poteva essere un ottimo punto di partenza per introdurre quelle misure, quelle modifiche, insomma operare in modo che si andasse verso un cambiamento del comune modo di pensare. Invece è successo quasi il contrario. Lei indagò anche sulla P2 e sui fondi neri dell'IRI. Nel libro inquadra queste vicende come le prime avvisaglie di tutto quello che poi avrebbe portato alla luce l'inchiesta Mani Pulite. La P2 è stata scoperta nel 1981, i fondi neri dell'IRI risalgono come indagini al 1983-84. Nel libro si racconta la vicenda, il fatto che dopo pochi mesi entrambe le indagini siano state spostate da Milano a Roma dalla Cassazione. Poi progressivamente le cose, a mio parere, più importanti si sono un pochino perse per strada, no? Ecco, io credo che in entrambi i casi, se le indagini fossero rimaste a Milano, Tangentopoli, cioè il sistema della corruzione, sarebbe emerso con una decina, 10-8 anni di anticipo rispetto a quello che è successo. Perché? Perché l'oggetto delle indagini poi riguardava anche, non soltanto, ma anche aspetti simili, gli stessi aspetti addirittura delle volte che sono emersi poi con Mani Pulite. E perché allora Mani Pulite iniziò proprio quel 17 febbraio del 1992? Che cosa cambiò? No, io credo che il cambiamento si sia verificato un pochino prima, non tanto prima. Alla fine del 1989 è caduto il muro di Berlino. E mentre prima era sostanzialmente impossibile riuscire a portare avanti le indagini, no? Succedeva che si iniziassero perché si trovavano elementi e poi per un motivo o per un altro andava a finire che le indagini rimanevano lì, dal caso singolo non si riusciva a avere un quadro complessivo. Cade il muro di Berlino e quel blocco di potere che esisteva prima in qualche misura è disorientato per un certo periodo di tempo. E allora cosa succede? Capita che le indagini possono proseguire. E io credo che Mani Pulite sia finita proprio perché via via che scoprivamo le corruzioni, possiamo dire correnti, no? Quelle di tutti i giorni, della persona comune, la cittadinanza in qualche misura si ritraeva. Io mi immagino che tante persone si siano chieste: ma questi cosa vogliono fare? Vogliono venire a vedere che cosa faccio io? E allora l'atteggiamento è cambiato, e siccome le prove si assumono attraverso le dichiarazioni oppure attraverso i documenti, beh, basta dichiarazioni e documenti spariti, basta. Fra le critiche che vengono mosse all'inchiesta Mani Pulite ci sono la spettacolarizzazione da una parte e il presunto abuso della carcerazione preventiva dall'altra. Qual è il suo pensiero al riguardo? Guardi, io rispondo molto molto dettagliatamente alla seconda delle sue osservazioni, in farla franca, se riesco a essere sintetico qui. Beh, noi abbiamo investigato su più di 5.000 persone, io credo che abbiamo chiesto al GIP, il quale ha il compito, la funzione di decidere se applicare una custodia cautelare a una persona oppure no, circa un migliaio di volte. Qualche volta il GIP ha rifiutato la nostra richiesta, il più delle volte l'ha accolta. Quindi le persone per le quali abbiamo chiesto una misura cautelare sono state più o meno un quinto delle persone indagate. Tutto questo si è verificato nel giro di qualche anno. Nello stesso periodo a Milano, soltanto a Milano, ogni giorno per altri reati venivano arrestate circa 20 persone, ogni giorno. Se abusi fossero stati commessi, io credo che l'abuso sarebbe emerso molto chiaramente. Quanto alla spettacolarizzazione, quel che è stato possibile, da parte mia almeno, io ho cercato di farlo per evitare che si raggiungesse un eccesso. D'altra parte però noi eravamo seguiti quotidianamente da delle volte nugoli di telecamere. Frequenta, si sente ancora con qualcuno degli ex componenti del pool? Con qualcuno sì, con qualcuno un po' meno. Io sono rimasto in contatto con Saverio Borrelli, sono rimasto in contatto con Ilda Boccassini, con Pier Camillo Davigo ogni tanto ci sentiamo un po' meno con Francesco Greco, invece ci siamo reciprocamente persi di vista un pochino Antonio Di Pietro ed io. C'è chi sostiene che la nuova Mani Pulite potrebbe passare dalle tasse, dalla lotta all'evasione, concorda? Beh, io credo che il problema dell'evasione fiscale sia un problema molto grosso in Italia e credo che oggi l'atteggiamento dei cittadini, di tanti cittadini, non di tutti, ma dei cittadini riguardo all'evasione fiscale sia un pochino simile all'atteggiamento che esisteva nel 1992 riguardo alla corruzione. E quindi qualche analogia si può anche trovare. Era Italia in Controluce, la seconda edizione. Torniamo domani alle 6:30 su Radio 24.